passare. Lucio Marie, buonasera. Ciao, buonasera. Come si va? Mettere mani. Faccio un badunda. Metterare mani oggi. Io aspettavo che avessi cambiato qualcosa, invece sempre tutto la solita cosa. E vabbè, l'importante è che sia bene. Ok. Come sto chiedendo? Bene sto? Sì, abbastanza bene. Allora, ragazzi, meglio. Allora, come ce la diciamo oggi? Cosa di nuovo? Sempre lo stesso. A Bacchino ho sentito l'altro. No, non ho sentito nessuno. Boh. Né a Marino né a Bacchino. Lo chiamo ma non mi rispondi. Certamente non ha voglia Bacchino. Speriamo che sia bene, grazie. Ma è strano, Strano, cazzo, è soltanto la fresca adesso. Non c'è il telefono lì, c'è ancora un soffratto oppure no? Ho provato a chiamare la moglie stamattina, ma deve essere che non c'era. No. Va bene, sono sempre. No, va bene, non c'è, io che andiamo via alla dottoressa. Passava a questi lì, guarda, sì, non fare la stessa, insomma. Speriamo che sia bene almeno là. Gio Mario, ma si fa sentire lui. Poteva fare la schiaccia, forse fare un po' della schiaccia, lei fa dire. Sto bene, non sto bene, qualcosa. O c'è il telefono, magari adesso ha il telefono scarico, ma non credo, magari la moglie l'avrà portato scarica a batteria perché il telefono. Gio Marie, sono allontanato per il telefono. È allontanato, va bene. Si è messo a squillare e l'ha già lasciato squillare. Marino è portato. Ci aspetta che ci andiamo. Marino. Hola. Marino, che lungo tardi, da c'è che manca Bacchino, non va entrare, sono un gioco. Ti sei innamorato di Bacchino? Parlaci pure, andiamo, beh, andiamo. Andiamo bene, io l'ho telefonato, ma mi sposto di domani. Chiamato domani, là. La maletta che mi ha ancora il capo di centro, là. Gio Marie, aspetta, non fa sentire lì. Fanno entrare un attimino. Allora stanno pensando. Io lascio la porta aperta. Sia uno che l'altro. Se mi vuoi sentire mi intendi, se no ho pazienza. Io a cosa non vi sto qua a Sabuliano? Vabbè, se si vuol far sentire la porta è sempre aperta, quindi a una certa ora noi siamo qua. La porta ha cercato di fare un cazzo e bussano un caro di sotto, se non bussano non si può fare niente, e così è. Stanno anche un po' di giro per cercare il tutto. sono fatto anche a California con la 25, anche loro stavano facendo la stessa, faccio la chiacchieratina, l'ho fatto e l'ho finito per questo film. Sì, vabbè, salire lì, fa bene da cosa, le bancarelle come te so sempre. Sì, lo so, non c'è da chiedere, ma si fa anche per fare due passi, cioè. Sono quattro file, questi, la tavola parata, poi se succede qualche cosa, quindi la cosa che ti piace di più è che è la cosa che conviene, la prima, capito? Qua è una, qua no, ci sono due bancarelle, ma che piacciono qua, e non venivo qua, perché almeno quando ci siamo saliamo, oppure questa volta perché abbiamo, facciamo il biglietto qua, magari la piazza in tutto, ci saliamo, se ci siamo in seconda, andiamo a Eve qui, a Oro qui, facciamo il diretto, questi prendono qualche cosa, la prendiamo e facciamo per il turista. Sì, Gio Maria, purtroppo. Andava, prima di salire lì c'avevo altre cose da fare e me le sono fatte stamattina. Abbiamo mangiato perché era una mezz'ora e passaccia perché era arrivato. E pensate che se sono di campagna, un po' di figlio, ma pensavo un po' di mandarazzi, quindi non succede. Un paio d'ore e lo prendere con la scatola. Infatti, è così, ma piano piano siamo andati avanti, a battere manda. Così era pagito, non si riesce a fare, la questione seria, bisogna stringere i denti e uscire dalla faccia. Eia, andiamo bene, andiamo, dai, è così. Aspetta che è entrato un altro, Gio Bratte. Avanti, signor Luca. Sì, Luca è a morte. Allora, capo chi sia. Fa fare da due sopra. Addirittura. Se la vince lo sta facendo piccolo, è vero, sto. Ma non si fa sentire lì, però. La vagogna, Anna. Eccolo qua, io. Chi è il Franco? Si chiama... Non si chiama Sarrabbia Esso. Sì, è così, è. Si sta arrabbiando, è strano. Ma che se non gli sta tutta la testa, Forse mi accargo con la mamma, entra di no che poi ce n'è andato un erudito. E là ci sono tutti qui, l'attaccamento. Loro possono fare, no? Infatti è così. Così bisogna fare. Comunque, sarà lì. Gio Maria. Che hanno voglia, già entrano, però fa vedere marasura, uno sì e l'altro no. Gira, parliamo da solo, diciamo, la notte, tanto si piglierebbe a pagliare. Purtroppo è così, baccano per caso sì, ti senti baccano? Non ho capito. Purtroppo è così, il televisore c'ho, e c'era anche mia moglie acceso e fa zengombutta. Ah, paesi, paesi. Che ritardo di risposta, perché stai guardando la TV e io l'ho dato le spalle, ha detto la TV, ma chi è quello che è attaccato qua? È un particolare, però mi viene un tanto, sto guardando le realtà, dai. Ma da me dice, non mi piace a me. Non c'è niente. Ogni tanto ne entra chi tu, si faceva la proprietà da sopra di te e so via. Allora mi faccio il tuo grosso. Ah lì, ti passa a te. Per mettere su 10 per essere, capito? E avvicina a te, allora fa quello, capito? Oh Gio Maria, ti passa sopra. Addirittura, non lo sento io. Io non lo sento per niente, nulla, non mi prendo il fatto di sapere. Vabbè, magari da me è lontano, ma penso che tu magari ce l'hai vicino. Ah no, ti fate Fabi Denny, lui nel stesso canale, ti parla sopra. No, no, questo canale non sento. Io su 10, devo essere su 10 sopra. Oh, entra, fa la chiamata e coso e poi già via. Aspetta, attimino. Non ho sentito. Ma già è entrato qua, è entrato sopra di te. Ti ha parlato sopra, buridu buridu, e poi si è avviato. Così non va bene. Così non va bene però, Allora, sta prendendo, non va bene. Gio Maria, è pure un vasi, ma è la prima busta. Ma io non ho sentito, se no gliel'avrei detto. Io non lo sento. Non lo senti, ti parla sopra lui, cioè per forza non lo senti, ti va a vedere da sopra, dice che di guio di non mai di ho... a me da me non vi bassa. Io non lo sento che parla sopra il te, non è quando parlo io, magari si porta presto la cosa di vista. Purtroppo è così. Andiamo bene, E vabbè, tutto a fabbrolo. Purtroppo è così. Anda vero ma adesso. Se vuoi entrare se mi nomi, se no se mi cagli gallo due. Io sto bene qua. Questo è il canale che non me l'ho comprato io questo canale. Oh, Allora non devi venire a domandare un permesso. Magari ormai. Prima era un 5. E dominava che era di 2 chili. Poi c'erano i 4. Adesso mi sono passato, da voi sono passato 23. Già ogni tanto già entrano anche qua, da questi. Uno fa quello che crede, e che se ne frega. Ecco. E il canale di tutti così. Fanno quello che vogliono. Io non ne ho problemi, Io ho tutto pagato, a saldo pure. Andiamo peggio, Mario, tutto a saldo, anda bene. Anticipo non è andato nulla, no? Hai visto la Germania, cazzo, dice che chiude fino a 10 di gennaio. Vuol dire che lì la situazione è più critica di noi, compreso. Vuol dire se l'ha fatta è più critica di noi. Cazzo. Noi siamo l'ultimo di tutti. Cazzo, l'ultimo di tutti. Vabbè, cominciano a fare il vaccino. Noi da qua in Sardegna cominciano, anzi in Italia, cominciano il 15, anche in Sardegna. Perché fa quelle altre, per la salute bisogna fare quelle altre. Se la fa bisogna farlo, dire che si è cagliato, boh, e a bene. Che la barca qua la chiamerà andare. E cosa vuoi fare? Quando è coso di... che iniziano, tanto inizieranno tanto dottori e infermieri, poi la gente anziana inizieranno, a mano tutta l'altra gente. Che ora devo fare? Tutti, Gianmarì, tutti quanti lo facciamo, tutti quanti. Fino a luglio, quando arrivano il resto. Non abbiamo già fatto. Questo è un altro tipo di partito, là. Anche per quello, là. Quello che hai fatto è quello influenzale. Questo qua è per questo che fanno adesso, da gennaio, è per il virus. Per far sparire il virus. Facciamo anche quello. La salute di farlo sto vecchino di darlo assolutamente non è che fare, ma fai il libro che si è tagliato a me. Infatti bisogna fare così piano piano, quando è l'ora del ballo rubemmo. Purtroppo è così, Gio Maria. Così è. Allora noi la lasciamo così. Va bene, no, anche se non è problema. Va bene, vuole pure tirare a capà. Fatti un attimino, Gianmarì. Gianmarì, mi sto facendo vedere come ti si fanno le iniezioni. Alla sedù. Stanno dicendo che inizieranno dal 15. Prima faranno medici, assistenti e infermieri. Poi le case di cura nella gente anziana. E poi ci metteranno a fare qua la gente anziana, a tutti quanti, a quelli che lo vogliono fare. Ma questa chi ce la fa? La dottoressa nostra oppure dove dobbiamo andare a fare? Non lo so, Gianmarì, dove bisogna andarlo, già lo diranno loro, lo diranno al telegiornale dove andare, dove ci sistemeranno. Allora stavo girando, va. Stavo girando tutti, se c'è andare a qualche posto andiamo, la facciamo, certo. Siamo qui, certo. È in fretta a buio, farà salute con gli altri Infatti, tanto loro dicono dai 60 anni in su dicono 60, 70, 80 saranno quelli da fare. Prima i giovani allora, di chi? No, la gente anziana prima di tutti, i giovani sono a ultimo. Ah, così. Ci danno qualche cosa per cui aspettiamo allora. Da 15 così è il 15? Così stanno dicendo, dal 15 in su. Certo. E domani il 15, mi pare. Di gennaio. Ti bacerà gennaio e ti bacerà febbraio pure. Io prima o poi la devi fare, perché io finisco mesi leggeri. Beh, chiaro, la gente dice un bel. Io credo che viene un bel, ma poi lo diranno dove andare a farli. Piano piano faremo tutti quanti, prima tutti gli anziani lo faranno e poi i giovani a mano. Meglia, 3B, 3B. Una volta che è fatto, sei tranquillo, e non vi pensiamo più, la verità è che abbassa pure il contagio. Infatti, proprio a me. Allora! Chi c'è retta? Caccia! Che ancora non si sa come c'è la questione, si fa bene, come lo fatti? Hai detto a Giammari che è entrato, un signorino è entrato, Gio Bratte, Luca, e varo video di Gio Passati, in Nantu. E mi sono proprio lì. Ce la fatti la bruba. Addio, con i fatti di sopra. A me già non mette di brutto. Ma no, Sammy, non ti credi che ti basta assai, no? Ma è che rimane un poco di turbato. Certo. Da nulla oppure qualcosa senti? Insomma. Cazzo, non va. Io già non lo sento, per cui non mi frutto. Se mi zappa, cosa mi zappa? Mi zappa. Tocca a te a dire qualche cosa allora. Se non riesci a con qualche gatto che vai vicino a dare a baci due a Gio Mari. Se non riesci a qualche gatto. No, ma devo essere a baci due a te. A me cacca. Deve essere a baci due a te. Praticamente se mi sa a dirlo che fa è chiaro che è un bel potente per cui si basta sopra, no? Chiaro, con gli sbatti di sopra, lo credo che mi basta. Gio Maria, a me mi pare che sia che su della battidoia che ti basta. Ah, lo credo che la battidoia. Se vivi a casa tua o giochi, cazzo ti arriva a te? No, parlando di sopra non lo so quanto arriva a me, però chi tu che era che entrava, che faceva davvero, chi su era dalla battidoia a Buru? Vabbè, sta tranquillo, chi lo senti tu? Senta anche a te lui, A modo che mi senta bene. A modo che mi senta bene. Vuol dire allora che accutendi. Io rispetto, non senta nessuno. E sono anche attenuato, per cui. Solo sento solo a te e basta. Nemmeno quel re metto. Per cui non senta nessuno, solo che a te e basta. Sì, ma passa a me non ve la valgi. Sono più forte dello. Non so bene, no. A magari aumentare, non so bene, no. cazzo, siamo di qua, caro boffa e... Mi la vedi? Tanto se devi parlare, non parlare sopra. Vieni avanti, fatti sentire chi sei e chi non sei. Aspetta, si fa sentire sopra all'altro, si fa sentire. Ah, vai da un poco, arrasta, di cosa che fa? Ma come stanno a darmi fastidio così, Chico? Sai che non si riguarda, si era apparato? Beh. Oh, ti porti appresso la voce sua allora. È così, Tu è qua in un altro canale e ti porti appresso a lui. No, Giammari, ti fai sopra modula, sopra. Però lo sento tutto disturbato a lui, e non ti entra perché lo sento disturbato. Tu arrivi più forte di lui. Ancora non l'ha compresa, Miso. Che ti cerca di sopramodularti sopra, ma non ci riesci. Beh. Io in effetti un fatto non lo sento. Beh. Nulla. Non ho sentito mai a nessuno. Questo apparecchio quattro lo prendo. Può succedere. Certo. Oh, Giammari, ti passa. Ti modula sopra, ti modula. È lui che ti modula sopra. So. Sembra strano, La funzione sembra strana perché, certo, lui è in un altro canale, non è in questo canale, Oh, Giammari, entra in questo canale, ti cerca di soprammodularti, ma non ce la fa perché sei più forte tu. Vabbè, aspetta che sento sia su 10, un attimino, Ciao. Io Giammari. Non l'ho sentito. Sto dicendo che deve essere quel tipo che è dalla parte tua. E a me mi arriva a 9.30 come mi arrivi tu. No, non posso dire niente perché non lo sento. E non l'ho sentito nemmeno in quell'altro canale. Ah no, è così come ti sto dicendo. Cerca di soprammodularti ma non ce la fa. Ecco cosa è. Se va sentire di bedu ma non è bedu. Non c'è buono. Sì, vabbè, sta là. Ti ho chiuso là. Non me lo chiuso per cui. Ci sentiamo domani, Saluto di casa, dai. Buon finimento. Grazie alla chiacchieratina. A domani, ok? Ok, Giammari, ci sentiamo domani. Andate, ciao Giammari. Ok, bye bye, chiudo.